invece, ripeto, di Sorscorbio, di Brunetta, di Sarpecce, di Mesa, eccetera, eccetera, ma compreso Rosa, di Omo, di Tabesa Cattuccia, parlo di una cosa, niente da fa, ha perso un contratto praticamente per l'assunzione definitiva, va per tutta la vita, ma cioè, parlando tempo di ritravagliare la bassola. Comunque, e allora la mi do la partita io, però ad ogni anno, ha detto che c'hanno 6 miliardi di euro, 6 miliardi che cosa di denuncia ai reti, non è male, ma e che tu gli hai di ogni anno, mi così, se che ti vuoi immaginare, lui guadagna del rubiglia al governo, del rubiglia, così vuoi niente, da poco quando arrivi da un'altra e d'assa, dici, obbligatoriamente devi fare un'assicurazione obbligatoria. Motivo questa assicurazione? Beh, l'assicurazione è obbligatoria, se no non puoi lavorare, perché un tecnico dice deve essere assicurato per un eventuale errore. E intanto chi vi burro e mossate di là, vai a fare un versamento in banca, ma di assicurazione. Se te lo vedi, grazie, insomma, che ti leggi italiani sono una vagogna. Ti condizioneggiano e ti impediscono di lavorare, la non venuta va. E fatto tutto con lo scopo per non poter guadagnare uno a conto suo, di mettere in condizione di farti solo lo stipendio di multo di fame. Se tu raggiungi quella cifra di più, so cauri due, ecco preso. A chi ti tiene sotto controllo? Già non so se devi fare questa assicurazione. Ma poi nessuno più si apre un'attività e a fare. E non trovagli, ma dallo Stato. Non ho più compreso, ma di chi si ha contro lui? E l'inzappa di domani cosa ti tocca l'invenzione? Quella cosa che ha travagliato la vita contro lui, due citi di invenzione ti tocca. E se non ci hai avuto fortuna muori di fame, non solo, muori e con i debiti di burro. Ma come lo vuoi dire? Infatti, a voi magari in DAP come da Marasur si chiama, praticamente dai l'assicurazione obbligatoria, di se pareni ogni volta che deve pagarlo, ad ogni scadenza, per il servizio particolare, no? Praticamente i contributi per la pensione. È solo il consulente ogni anno, 1500 euro solo il consulente ogni anno, ma che il consulente ci vuole, il consulente commerciale, e lui, una volta vai, che deve fare fatture, deve fare praticamente le cose, deve fare, no? Però devi a poco arrivi, quindi tu fai di fare un trovaggio, diventate una parietta, un comune di Sassari. Ecco, uno di comuni che è già più di 15 mesi e ancora non ha mandato le denaro, nonostante che ha presentato il progetto da mesi e mesi, anzi da un anno e più, più di 15 mesi, ancora a mandare le denaro. E così succede quando fanno i travagli in bari tribunali, così succede quando fanno i travagli in bari comuni, tipo Urbia, tipo la Maddalena, e Tempio, e tutti gli altri di cose, che travagliano con tutti gli altri che suffissi travagliano, come questo. Addirittura è presente a fianco allo Iudis in tribunale quando ci sono dei problemi di fallimenti, malevare, che ha fatto la perizia, insomma, diciamo, cosa vuoi dire? E chi si dirà pure arrivi di quando si lamenta, però quando devi versare a chi va a pure tirare di là, tu cosa fai? Sei obbligato a fare la battuta, a chi lo vuole d'obbligheggia a fare la battuta, e la battuta vedeva se è già compresa l'IVA, ecco, arrivi la cadenza dell'IVA e dalla versa, compreso, però rimane ancora non cacciati, né chi si serviva e né chi si sui gli ridebili di Marietta. Se te lo vedevo, è una lotta continua, è una lotta continua, per forza per tutta tanta di disoccupazione in Italia, repito, un vito sistema di malordo che fai, cosa vuoi dire? Lo so, allora quando vado a viaggi, rimaniamo a cani, io ho lavorato anche per conto delle poste, pagamento a 90 giorni, anche per conto del tribunale, pagamento a 90 giorni, quando mi mandavano a fare pignolamenti, no, a carica e buoniare un cane. E l'indinanza per 90 giorni. A quando mi arrivi a l'indinanza per il ritardo, dove paga l'IVA della battuta? Luca Giulio ti gastava la bocca a bicca, era bivizio di pindini, di date, di debiti, chi gli si rincacciava, infatti non ha più fatto, vai a mazzetti, si è detto a voi a mangiare, già ne mangio io, alla mano, dritati alla se li doveva dare. Purtroppo di usi, no, vabbè, comunque, quello lo deve sbuttare, ma com'è una femmina che già si muove, che se no se ne è stata una femmina dormita guai, guai, ma chi aveva fatto la fame, invece stava lì là, già si riesce a definirsi abbastanza bene, però per dirti no, tutti quanti che sono ingiustizie capita, ma se quello comune di razza che deve da qua se dice ricco via io che è ancora sua femmina, ma è una domanda, ti ha fatto un progetto, te l'hai presentato, te l'hai approvato, e tutto quanto, hai dato un buon rapasso a fare i travagli e ancora a me non mi hai pagato. Ma se sono così, meglio è uno, con questo vuoi, no. Beh, vabbè, dai, tanto sono toccato a mia fianchi, ho preso, grazie. È una massa di due assassini, un ladro, pensano a mangiare di buono nella fucina, ma oggi come oggi ti ripeto dappertutto, in qualsiasi settore così, per carità, non ce n'è più gente, come ti si dice, sono diventati tutti randaggi, per carità qua. Vabbè Giulio, io chiudo, che mi faccio l'insulina e poi preparo l'accesa. Ciao, ce la sentiamo domani se Dio vuole, alle prossime. Ciao anche a Gian Maria se ancora in ascolto. Riprendi. Ok, ciao, grazie, ciao. Ci sentiamo domani, dai, salutoni, ci sentiamo. Ciao Gian Maria se c'è l'ascolto, dai un colpo importante se c'è l'ascolto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Attenzione Gianni, ci sei? Attenzione Gianni, doppio room, ci sei?